50 non ho visto a nessuno in giro. Il brocevisto che è il video 50 è molto di nato d'occhia. Mi compro quella catena blindata, quella che se tu vai a romperla con la tronchesa, si spacca la tronchesa, la lama della tronchesa. Che quelle lì non le rompi, quelle catene. Ce l'avevo. Io quando mi ho venduto la moto, ho dato anche la catena, quella lì, che c'aveva una chiave speciale per poter aprire il lucchetto. Della catena, le prendo una posta antifurto e lui si così tipo una catena normale, anda in quella tronchesa e l'apri, no? No, già la cosa, la catena che c'avevo io, capito, sono uscito a tagliare la catena, hanno preso e si erano caricato direttamente in moto carrozzella e nessuno aveva visto niente. Allora quel giorno gli ho detto va a far culo a comprare più moto, non le prendo più, non devo stare sorventato con lo scooter eccetera eccetera, capito? Ogni volta ero trovato le balle, quindi è un casino, meglio la macchinetta 50, mi reagire, almeno la parcheggi fuori, di quelle già non le tocca. Ehi ragazzi, siamo camminando un cazzo, io mi biglio lo scooter 50, se non c'è me lo faccio installare l'allarme, se tu poco a poco la tocchi, si mette a suonare, io esco dalla finestra e posso nubi, perché io la posteggio sotto la finestra mia, se poco a poco suona la moto toccate da gaga. Sì, l'allarme non è che ci voglia molto a piazzarlo, ma se ti procuro di quegli allarmi piccolini, c'è una tastiera, ci metti un, come si chiama, un altoparlante esterno, lo metti per dire in qualche punto che nessuno ti veda, e beh, come sono, lo usavo io una cosa del genere quando allora ho ricoverato l'ospedale lì di Fratale Biciclo, avevo agganciato uno di quegli allambiti, quindi adesso non mi ricordo come che marca era, l'avevo proprio messo dietro perché parcheggiavo la moto direttamente all'interno e c'era uno che batteva lì, figurati, ogni tanto la toccavo, la pigliavo e con la bacinella dell'acqua che c'era il vizio di inserirsi quel finocchio, capito? Un giorno ha giubilato e ha posto l'acqua e ha detto non ti fa nulla, aspetta che ti faccio nuovo io. Ho preso e gli ho messo quel cicatrizzante, quello rosso, che bello, perché quello già ce la fai domani a togliertelo. Quello lì ci ho messo in mezzo all'acqua, dovevi vederlo tutto rosso, bestemmie. E io si bisogna andare, a Roma come se facessi i buoni caghi, ma ce l'ho già la tintura di Udine. Di notte era una cosa che mi facevo, mi chiamavo, mi andavo che l'avevo tutto che sta suonando. E io ho detto non ti preoccupare, fra poco già non suona più, gli ho detto per una sede per almeno un mese. Ma ti facevo, non ti preoccupare, ho detto che ho comprato una boccetta di tintura di iodio, gliela metto in mezzo alla bacciarella dell'acqua, e ecco come se ne fugge quel finocchio. Avesse, si era appena cambiato, si era, l'ho fatto tutto rosso, sembrava cappuccetto rosso, sembrava. A bestemmi era, hai detto forse non hai capito da lì che devi andare e non ti sei reso per la moto, se vuoi andare a battere batti la tappata, non qui, gli ho detto. Che si viene, una roba da chiudere. Non l'ho più visto, è stato quasi 3 mesi che non si metteva a battere, anzi passava, era passato dalla parte opposta di fronte ai giardini, ogni tanto lo pigliavano per il culo e lui si metteva a voci. Vabbè Antonella, ci sentiamo che io devo fare cosa adesso, già rientro più tardi se ci siete, dai. Yeah, d'accordo, ciao, Natalia, alle prossime. E occhio alla cireola. Eia, già sto attento, già mi metto la busta della mordetta. Più tardi quando riusciamo a fare quattro chiacchiere con la gente della zona qua di Sassari eccetera, sempre al massimo fino alle 8, dopodiché a quell'ora si chiude, boh, e se ne parla probabilmente l'indomani quando capita. La 27 è completamente scomparsa. Prima la usavano molto quelli che avevano una casina in montagna, dai, salivano su genitori, figli, per avere anche collegamento, perché con la radio in certi posti non c'era il ponte, capito, non c'era collegare. Allora con la 27 che chiamavi in casa, dicevo, sono qua, tutto a posto, completamente capace. Sì, beh, noi si usano il telefonino, usano altri sistemi di comunicazione, anche con computer, eccetera, per cui ormai la radio per la 27 si può dire che è fuori di moda, dai, non c'è più tanto, oppure usano il telefonino con quell'applicazione che è a livello mondiale, non so se tu ce l'hai, ma suppongo di sì, e appunto preferiscono parlare lì anziché al baracchino. No, però in montagna ci sono dei punti qua dei spot radio non lo ricevi, allora se vai su in un certo punto della cascina e non c'è la copertura del ponte radio, non riesci a collegare il tuo telefono, eh? Allora avevano questi baracchini e parlavano con i baracchini. Adesso purtroppo è andata a ballino anche quella, KK. Sì, e beh certo, ormai è fuori moda, e mi ricordo negli anni scorsi, senza andare nemmeno troppo indietro con gli anni, c'era un affollamento con quei baracchini non indifferente, ma poi pian piano sono andati scemando il numero delle persone, e vabbè, evidentemente la gente si è stancata e ho preso la passione per il baracchino, non lo so. Comunque noi ancora ci siamo in pochi, ma resistiamo ancora, eh. E poi tra l'altro siamo tutti persone di una certa età e con tanti anni di militanza in questa frequenza, ma proprio persone nuove, di zecca, che sono per entrati e non ce ne sono più, eh. Non c'è più nessuno che compra baracchini. Cappa, QSL, confermo quello che hai appena detto. Mamma mia, se ci penso c'era 30 o più, altro che 30 anni, più 30 anni. Eravamo andati in montagna con degli amici in una cascina a fare così, i soliti picnic, e eravamo sui i baracchini, i pannelli solari, eccetera, eccetera, ma in cascina non c'è corrente, no? Eravamo collegati a questo tipo della Sardegna che era uno di Sassari. E uno di produttore, il Gabbiano, mi ricordo ancora, non mi sembra vero quando c'è detto che era di produttore, sono in giro in lacrime agli occhi ancora oggi, sarà buono, veramente più. Questi modi era una bella esperienza, una bellissima esperienza, perché c'erano degli amici lì, dove abito io per il zona, e dottori, dentisti, andiamo su in montagna, dobbiamo collegare, fare collegamenti con la radio, magari facevamo, non so, per in zona Alessandria, ma con antenne costruite manualmente 9 più 40, eh? Te Giulio Cappa. Sì, beh certo, sì, evidentemente era possibile fare certi collegamenti con una certa intensità di segnale, indubbiamente sì, ma oggi purtroppo non c'è più la gente. Prima si faceva addirittura la gara che poteva uscire più forte, e allora ognuno si attrezzava, ma oggi invece, oggi come oggi, non serve più. Non serve più nel senso che ormai la gente si è stancata, tu pensa, oh vabbè, hai ragione veduta, se vogliamo, e si è stancata, perché se tu consideri che ad esempio io che sono al baracchino dal 1972, praticamente ci sono 49 anni e mezzo, non sono pochi giorni, è chiaro che poi con il passare degli anni, anche perché si incomincia a diventare una persona di una certa età, è chiaro che ti stanca e piano piano la gente si allontana anche per quello, e con il passare degli anni la gente cresce, si stufa e abbandona la radio. Caparoglia Giulio, esattamente, c'è ragione quello che hai detto, confermo. condivido, ma era una bella, hobby, non so, magari uno c'ha altri hobby, altre cose, però la radio era bella perché mi ricordo che noi c'erano degli amici, ho collevato uno della Spagna, sono andato lì, qua là, sai, mi sentiva bene, un certo piacere, KK. Sì, appunto, era una grande soddisfazione perché pensando che magari stavi utilizzando una apparecchiatura di debole potenza come appunto il baracchino, e allora fare certi collegamenti a certe distanze era molto, molto interessante, chiaramente quando c'era la preparazione, però tante volte durante l'anno si riusciva a fare diversi collegamenti, invece oggi come oggi no, solo quando c'è tempo buono, perché raramente quando c'è tempo brutto si riesce a fare i collegamenti, e poi prima ci si scambiava anche la cartolina, insomma diciamo che c'era un certo interessamento da parte di tutti, però ormai è fuori moda, ecco, diciamolo, mettiamolo in questo modo, ormai il baracchino è fuori moda, non è più come prima. Io ho amici radioamatori, ho amici certificati di mestiere, tutte le razze, tutti i colori, avvocati, ingegneri. Però anche sui ponti radio, adesso, oggi che oggi, dalla Svizzera, abbiamo diversi ponti radio, no? Io entro, io ascolto, io sento, ma non voglio neanche più entrare a discutere con certa gente a una certa ora del mattino perché mi sembra dire così. Li senti di giorno, li senti di notte perché loro là è giorno. Ma mi ha stufato, guarda, mi ha stufato. A te cambio, calota. Ok, sì, ma è così, ripeto. Arrivato ad una certa età, è chiaro, si stanca, e la gente quasi si stanca della vita, prima o dopo se non si stanca del hobby che uno magari ha utilizzato per tanti anni. Purtroppo è così, cosa si vuole fare? Non ci possiamo fare niente, è nella natura delle persone, no? RK no, ce lo dicono, anche... Magari anche in diretta, lo so, la Lombardia, il Piemonte, lì siete attaccati, non lo so, dimmi se quando c'è l'attività lì in Svizzera riuscivate a collegare quasi giornalmente dalla Lombardia al Piemonte, insomma la Valle d'Aosta, tutta zona lì a portata ottica con la Svizzera, riuscivate oppure avevate bisogno anche lì della preparazione per sentirvi? No, come ti avevo accennato in precedenza, noi andavamo poi anni fa in montagna, c'erano degli amici che avevano una cascina, no? E da lì facevamo fare normali, portate qualche 30M, qualche cosa di 30 watt, però l'alimentazione è tutta batteria, i pannelli solari, già i tempi di tempi. Ma lì da Bellinzona, dai monti di Bellinzona arrivavamo a Alessandria, 9:40 a te Giulio Campa. Appunto, è quello che intendevo, essendo lì molto in alto e confinante in pratica col Piemonte soprattutto e con la Lombardia eccetera, magari era possibile, e ancora oggi se ci fossero persone attrezzate lì in Svizzera potrebbero collegarsi anche con quelle regioni che ho detto, perché essendo vicini, confinanti, non c'è una lunghissima distanza, poi tra l'altro in linea d'aria è anche ridotta la distanza, per cui non c'è da escludere che si possa fare collegamento diretto senza bisogno della propagazione, come ad esempio abbiamo bisogno noi qua in Sardegna per poterci sentire con Piemonte, Milano eccetera, Lombardia e cose varie, abbiamo necessità della propagazione, se no non è possibile, almeno in questa frequenza, parlo di questa frequenza. Gappa Roger Giulio per 20 giorni. Sì, esattamente, c'hai ragione. 21 era un 20, ma se ti richiamava alle 10, alle 10 di sera, di notte, dai Johnny, andiamo su in modo di fortuno, che la professora c'era 10-8 km, andiamo su che vogliamo parlare dopo la radio. Carica, avevo una carica di generatore, carica di foto, andiamo su per parlare magari. Lo so, purtroppo è così. Sì, beh, qui non era possibile parlare con Fulvio. Pensa che non si riesce a parlare con a metà della Sardegna, al massimo qualcuno può arrivare, ma bisogna che abiti in una zona molto alta di Sassari, se no non ci arriverebbe nemmeno. Ma mentre lì sarebbe sicuramente più facile, sai, dalle montagne eccetera, le antenne hanno una visione ottica sicuramente superiore di quanto ne possiamo avere noi qua in Sardegna, ma nemmeno cosa possiamo arrivare. C'è gente qua magari che riesce ad arrivare anche a Oristano, però gente che abita in altura, molto in alto, se no non ci sarebbe niente da fare, non ci sarebbe quella possibilità di parlare con certe persone a quella distanza. KK Giulio per Johnny. Il problema è questo, che con quegli apparecchi, che noi avevamo, un po' degli apparecchi molto limitati, e erano 0,500 mW, non erano come qua in Sardegna, in Italia, erano 0,500 mW, così che e poi non avevano tutte le bande come oggi, avevano solo, mi sembra, Sì, beh, quello sì, lo so, era di piccola potenza, però, ripeto, avendo la posizione è importante. Oggi noi cosa possiamo usare con 500 mW? Possiamo usare al massimo il PMR, niente di più, ci permettono quello, perlomeno a livello civistico, Poi si sa, a livello amatoriale, allora è diverso, possono utilizzare apparecchiature sofisticate di una certa potenza e problemi non ne hanno. Però parlando fra i CB, al massimo ci concedono il PMR con 500 mW e non di più, praticamente mezzo watt. Però non è che puoi arrivare molto lontano, a breve distanza sempre il collegamento avviene, perché se no non è possibile, anche perché lì trattandosi di UHF il discorso sarebbe ancora più difficile per poter trasmettere, potersi collegare. Va bene, comunque noi ci accontentiamo della 27 finché qualcuno ancora si fa sentire e possiamo chiacchierare. Diversamente pazienza, quando non ci sarà più nessuno vuol dire metteremo tutto da parte e troveremo qualche altro modo per passare il tempo. Kappa Mr. Johnny per Giulio. No, appunto, adesso con questi altri apparecchiature telefoniche, che io sono ancora un po' imbranato di tanto blocco o qualche cosa, devo chiamare il mio figlio, ho bloccato un motore, ho bloccato qua, ho bloccato lì, ho bloccato là. Ma li useremo senz'altro sempre di meno, sempre di meno. Signor Rimondi, mi ha fatto molto piacere sentirti e ascoltarti, e se senti salutami Gianni e tutta la compagnia che una volta entrava sulla 27 su questa banda o su 21 qualche anno fa. A te Giulio Cappa. Ok Giulio, sì, senz'altro farò la baciata, ti saluterò gli amici che ti ricorderanno sicuramente, perché hai avuto modo di parlare un po' con tutti qua. E come ti dicevo, a quest'ora magari ci sarebbe dovuto essere QSO qua con un certo numero di persone come era prima, ma adesso no, non è più possibile. Adesso tutti al mare ad abbronzarsi le chiappe chiare, così diciamo noi a Sassari. Va bene, dai Giuni, io ti ringrazio per il QSO, buon ritorno in quelle di Svizzera e quando rientrerai la prossima estate fatti sentire di nuovo, sarà un piacere di ascoltarti e scambiare ancora quattro chiacchiere. Ciao Giuni, grazie ancora per il QSO, salutoni, ci sentiamo alle prossime, ciao! KK, Giuni con Giulio. VSL, se tutto procede nel migliore dei modi, che sembra che non sia proprio così, torneremo a settembre, perché io, come sai, venivo due o tre volte all'anno, ma con questo problema ho evitato di creare confusioni. Mi ha fatto piacere che mi hai salutarti e ti saluto cordialmente per tutto il tuo cuore familiare. Con una buona serata, una buona tarda. A grande, ciao Giulio! Johnny fa QST. Ok, ciao, ciao Johnny. Buon QST. Si è cambiato i saluti anche per il QRA familiare, dai, salutoni, ci sentiamo, un abbraccio, a risentirci alle prossime, quando ritorni qua in Sardegna facci sentire, sicuramente una sera, se non un giorno o l'altro, riuscirai sempre a trovarmi, perché io di solito accendo tutte le sere, anche se non parlo magari perché non c'è nessuno, però la radio è sicuramente sempre accesa, magari è squarciata, però per evitare il rumore del fondo, però ci sono sempre, l'accendo soprattutto per far saldare la radio. Ok Johnny, alle prossime, di nuovo salutoni, ancora salutoni in famiglia, ci sentiamo, ciao ciao Johnny, buon rientro in quel della Svizzera. QSL, QSK, ciao Giulio, buona serata, buona tarda e alla prossima, ci sentiamo ancora a KK. Attenzione, Rai 10, Flecoso. Hola. Hola, 1, 2, 3. Hola, hola, hola. Roberto Quadrato, sì. No. Ciao Roberto. Perché non mi riconosci? Ma ero in cuffia, mi stavo ascoltando con l'altro apparecchio, capito? Quindi rimbombava. Pensavo stesse succedendo diversamente, perché sono qualche giorno che non utilizzo l'apparecchio, infatti è troppo strano. E anche io non ti credo, non sentivo più nessuno la sera, infatti non stavo più attaccando. Perché non sentivo più nessuno, sono tutti al mare, Roberto. E tu, girando stanno. Al mare, cazzo, chi c'è che non travaglia, né quelli che lavorano. Sì, vabbè, ma c'è gente in fili anche, adesso c'è gente in fili. Tutti i di fili non ti fai in casa. Io giro lo stesso, anche se non sono, vabbè, io non sto lavorando, cioè, posso girare, ma io dovrei andare a pescare, devo decidere. A pescare deve avere qualche zona poco frequentata, perché io per dire, io ero a Trentino, per fare un esempio, vado in questa calettina di, come si chiama, Camerici, che non c'è nessuno, è scoglio morto, c'è questo qua, le volte che vado dall'altra parte butto la lenza, ma non vedo manco qualche pesciolino, vedi, ma mai visto pesci grossi, non li ho mai visto, e lì trovate tutta la mattina lì buttato, magari qualche posto vai alla gentiera, se riesci a buttare fuori, e verso fuori, di lì forse qualcosa prende. E io ti dico il contrario, senti, non ho preso l'argentiera, sono andato una volta a Porto Palma e non ho preso niente, senti, invece ho preso una lana, ma grossa però, di fondale, di quelle grosse, e mi piace l'angelino, quello di Alghero che modulava con me quando l'ho presa, stavo parlando di prendere con le mani perché ero oltre le rocce, no? E dovevo far passare le rocce per portare il pesce da me, e stavo portando con la mano, malla! E vedete anche io, cazzo, non ho riconosciuto che era malata. Se la toccava aveva fatto le mani secche. Vabbè, se va a Porto Palma, se non è che di lì ci sia molto, perché sabbia, devi andare verso la frana dietro, di lì ti pigli quegli sculli che ci sono davanti, di lì già c'è qualcosa, già gira. E a Sentino, anche se vai al molo, trovi di pesci qui, già ce n'è di pesci, però non sai cosa c'è, che lì alla Pelosa c'è il male basso, devi andare oltre la Pelosa e tra la torretta e un po' più lontano dalla torretta, là, ci dirì. corrente e riprendi il PCB. A Capo Falcone, dietro, avanti, dopo la cosa, il passaggio di Forlì. Sì, sì, li riprendi, però la cittadina ho paura, perché già una volta è caduto la mercurio di notte. Cazzo, se ti racconto la sua, ci hanno fermato i carabinieri a processare ancora. Era di 10 giovani, ci hanno portato il mitra in faccia, tutto. Questa cosa ha detto, scusi, ma il mitra me lo toglie da addosso, che io non so chi siete, chi non siete, scendete dalla macchina, aprite il cofano, cazzo, ci hanno visto le carte, tutto qua, da dove state andando a pescare? Ah, va bene, dove andate? Che poi veniamo a trovare, perché poi abbiamo fatto amicizia, dove andate? Che veniamo a trovarvi, e gliel'abbiamo detto, manco mai, problema. È caduto questo amico mio in giù di notte, cazzo, è rimasto con la testa a bagno nell'acqua, e per poco cazzo non affoga, da quanto stare a scendere io, sono arrivato qui in carabinieri, mentre che è caduto, aiuto, che successe? È caduto un amico mio, sono sceso in giù, ci hanno dato una mano a portarlo su, da questo caso, molto male, imbrabbinato, si è spostata la scapola, tutto tagliato dagli scudi, guarda, lasciamo perdere, non ci vado più di notte, sempre bisogna stare attenti, già anche bene che stecco, che non capisco bene quello che dici. Guarda adesso. Ce l'hai ancora, perché faceva la doppia parola, diceva, dovevo stare attento, se no non capivo quello che dicevi. No, di notte bisogna stare attenti, ma sto scherzando. Ma che non vai in un posto dove tipo le roccette bianche, piano piano, che vedi, illuminato, ma accendere così, ma cadere qui già tagliare il poco con la roccia di sentino. Io non so da che cosa me ne sono accorto, perché avevo messo il filaccione per i grumi e avevamo attaccato dei barattoli di Coca-Cola. Ho detto bla bla bla bla bla bla, Antonio, guarda che c'è il grongo. E lui non rispondeva, oh Antonio, il grongo! Cazzo, invece era lui col piede, cazzo, che l'aveva toccato invece, gli aveva tirato la letta come cagù. Cazzo, no, stai attento. Il coso, Elio è un amico mio, Elio Onali è morto a coso, dopo Castelsardo, come si chiama? Maria Ostina, lì è caduto, gli è venuto una specie di mancamento, si è buttato in mare l'amico a salvarlo, però poi è morto. Ma forse dal malessere è morto o è annegato? Ma non si sa veramente, no, non è morto annegato, però deve essere avuto qualche mancamento, è caduto dalla scogliera e si è fatto a muglio, si è buttato quello lì a tirarlo, però forse un infarto, non si sa cosa gli è successo, ma probabilmente un infarto si pensa. E a chi è avanti? Vabbè, l'hai sentito? Sì, ma non ho capito dov'è. Dove sei? Scusa l'amico. Catania, provincia. Ah, pensavo che fosse coso, Mirko, quello di Alghero, no? Catania, avanti Catania, vai tu già. No, ti ascolto Santiago, se purtroppo io ho il QRM molto alto, se vuoi ripetere il nominativo, ti lancio prima l'amico Gianni, avanti Gianni per l'amico di Catania. Non ho sentito bene nemmeno io, poi è stata la modulazione. Vabbè, comunque lo sento cordialmente, la sento la rimane, è sentito, avanti di nuovo, operatore Gianni di Perù che ti super cordializza, avanti, adesso ti ascolto al centro, vai, ti ascolto molto meglio. Quanti whisky idea? Sì, adesso ti ascolto molto meglio, sei quasi 9, Santiago 8 tendente al 9. Comunque, buonasera qua da Sassari in compagnia di Roberto, me medesimo, e Gianni l'amico dall'altra parte. Se vuoi ripetere il tuo nome non ho capito, sei dalla provincia di Catania, però non ho capito il nome, se lo vuoi ripetere. Sì, buonasera Salvatore, questo passaggio è 9, sì, ci siamo sentiti altre due volte. Ti ringrazio Gianni e poi ci dai un controllo di Santiago di radio eventualmente. Io ti ripeto il tuo, adesso sei 9 e Radio 5, avanti Gianni. Sto arrivando bene, non so come mi senti, io sto uscendo solo con l'apparato, sto usando un Cobra X, non ho nessun dinero attaccato, va bene così, dai. Andiamo. Aspetta un attimo. Dai, se qualcuno contro cambiato a te tutto il tuo carrato. Avanti, chi vuoi Ugo, sento anche io l'amico di Catania, Attenzione all'amico di Catania, se ascolti Luca, città di Sassari, avanti, nord Sardegna. Mi senti più. Ciao Robert e ciao Gianni. Ciao Luca, avanti Catania, Salvatore, mi sa che l'operatore canale è arrivato a 9 poi, si sentiva benissimo, Radio 5, però era con 150, allora, dici di, proviamo di nuovo a vedere se c'è ancora, avanti Salvatore, se mi ascolti, se no riprendi tu Gianni. Salvatore, ci sei ancora? Luca, come mi ascolti con questo M300? Cosa? Come mi ascolti con l'M300? Bene già, bene, perfetto. Allora, ti volevo dire una cosa, l'altro giorno è capitato questo, tu lo sapessi che noi cantiamo, e nel computer praticamente mettevi le canzoni, però non apparivano le parole, ma che cosa tu ripeti? La karaoke. Esatto. Cosa già? Praticamente sì, esatto, la karaoke. Non appaiono le parole. Invece, cioè il testo non si vede, si sente la musica ma non si vede il testo. Cioè abbassa con l'eco, non si comprende niente, abbassa, non c'è bisogno, ma in lontananza va bene. E potrebbe essere il karaoke, disinstallatelo, installatelo. Facciamo così, da. Facciamo così. Ma non è karaoke, cioè praticamente noi lo prendiamo anche da YouTube, capito, le canzoni. È quello di YouTube proprio, non è che Van Basco o roba del genere, perché io più non usavo Van Basco, adesso non ne sto più usando Van Basco, sto usando direttamente le canzoni di YouTube. E vanno bene lo stesso, è quelle che non funzionano. Sì, ma già dovevi indicare sotto che vuoi la cosa, sottotitoli, se no magari non te lo danno. No, prima le mettevo in automatico, Romè, come cliccavi sopra ti metteva la canzone con tutto il testo, capito? Vabbè, sono vero, la devo controllare bene, perché l'altro giorno è andata a cantare, lei non riusciva a cantare, si è incavolata anche perché dice una sera che c'ho libera, cazzo non posso cantare, e vabbè, è finito lì. Mari, quando metti la canzone non gli hai impostato, ma lo fa anche a me, su, io ho la console, quella dove prendi i file musicali eccetera, se lo scrivi in BPM non ti mette la velocità, per cui se devi fare delle correzioni non le puoi fare. E infatti ho detto, ma come mai, siccome tutti loro lo fanno, se ne intendono, ho detto no, devi scrivere per dire titolo della canzone e poi BPM, così ti mette anche la velocità. La stessa cosa è, sicuramente sarà anche per la canzone, se non scrivi, non mi ricordo cosa bisogna scrivere per farti uscire i sottotitoli. Cappa, testo, adesso provo a scrivere il nome della canzone e poi ci metto contesto. No, ma devi scrivere in inglese, aspetta come si scrive, non è un testo, è la traduzione in italiano, però ci devi scrivere una parola sotto, per dire, ti posso dire cacca di canzone, l'anno che verrà, e poi sotto ci vuole una parola in inglese, non me lo ricordo come si chiama, adesso non mi viene. Adesso vediamo se riusciamo a metterlo a posto, se no chiamo a Luca e lo faccio venire qua. Ascolta a me già, che canale che state usando? Stiamo usando quello di YouTube, quello, le canzoni di YouTube. E praticamente quando tu metti il titolo della canzone ti metto karaoke, il titolo della canzone e te lo dà da YouTube, ti dà le canzoni, capito? È strano comunque, perché non può essere un problema di computer, ma tutte, non te ne fa leggere manc'una. No, perlomeno ho provato e ho provato anche io, dice ma chi l'ha toccato il computer? Chi l'ha toccato? E non ha toccato nessuno, ed è toccato tu per l'ultima volta, quindi non te l'ha guidato nessuno. Ma prima andava? Sì, sì. Ma qua l'ha toccato, oppure non lo so già, non so cosa dirti. Comunque io, ma se vuoi ti scarichi Van Basco, ma ce ne ho tante, se ti interessano te le do. No, Van Basco è troppo... lo facciamo direttamente da lì, va meglio. Troppa roba c'è, cioè, troppa confusione in Van Basco, ce l'ho avuto io, ma... Sì, puoi regolare tutto, c'è l'equalizzatore, c'è tutto. Io lo facevo prima con Van Basco, poi ho visto che questo è più semplice. Clicchi sopra e te le dà. Che strano. Io per esempio se vado su... Cioè, faccio un esempio. Se tu vai col telefonino su YouTube e scrivi una canzone, con la, vabbè, una qualsiasi canzone da cantare, te la dà. Sì, devi scrivere karaoke davanti e poi mettere il titolo. Io per esempio ho messo karaoke moda, e me lo dà così, come un pittore. L'avevi dato da che cosa, non so cosa sia. Sarà qualche cosa da toccare, da guardare. O lo dico a Marco, ma Marco non lo so se ne fa. Già, antivirus ne avete? Cosa? Antivirus ne avete? Mi sa di no. Forse è entrato qualche virus. Te l'ho detto anche io, Se dice non è possibile, tanto non è possibile, entrano, vanno all'Inps, mettono il virus anche all'Inps, fate un conto, hanno bloccato tutto il sistema operativo una volta. Tutto è possibile, avanti Robert. Aspetta che c'era, forse quello di Catania stava chiamando di nuovo, avanti Catania, mi sa che se n'è andato, però quando stava parlando prima Gianni l'ho sentito sotto chiamando, di nuovo Luca prendi tu. Sì, già, è l'unica, io vabbè non lo uso neanche, io uso, allora se ne voi ho delle basi, già cioè sono scaricate, ce ne sono tante, scaricate, come si dice, con... cioè tu le apri è come se hai cosa aperto, come si dice, YouTube aperto, non tante, se le vuoi già pronte. Ma sai che cosa c'è? Che lei si sceglie sempre come si dice, si sceglie il tipo di musica da mettere sottofondo, perché certi tipi di musica non gli piacciono come sono, capito? Quindi si sceglie il testo con la musica che le piace a lì, capito? Oh, so. Ma YouTube te lo apre bene, giusto? Va bene, si dà la cosa, allora Marco ha scaricato anche una pennina lunedì, ha scaricato, non lunedì, domenica, quando è venuto a pranzo, si è scaricato una pennina, e poi lunedì l'ha usato lì, ha cantato, ha fatto, e poi martedì è andato, martedì c'è il giorno libero, e poi io stasera mi metto, ci mettiamo a cantare, vabbè. Comincia tu, gli ho detto dopo, cioè cosa comincio? Qua non entrano le parole, cazzo, ho detto, ma sarà, magari è roba di internet che non si collega a internet, aspetta, ma facciamo dal telefonino, dal telefonino lo faceva, capito? Non so, alla fine quando tu scrivi karaoke te lo dà subito, ti dà già, cos'è che è? Se non esce niente, cioè le scritte non si vedono proprio. Si sente la musica, tutte le scritte non si vedono. Non so cosa dirti già. Ma là, quel tipo di computer, l'Asus, il X54, l'X59 mi pare, 52, adesso vabbè non mi ricordo, HG, vabbè. Quelli hanno un problema. Il problema è questo, che allora, siccome non fa più aggiornamenti Windows 7, ok? E allora cosa succede? Quando tu lo resetti, quello è solo il tipo dell'Asus, cioè proprio l'Asus in sé, la telecamera si vede a testa in giù, siccome non fa gli aggiornamenti, cosa succede? Che purtroppo, perché tu cercano gli aggiornamenti, ti dà anche i drive della webcam, e se li metti a posto, e invece quello lì nulla, non c'è buca tu vedi, è strano, ma c'è tutti gli altri computer tipo Acer, poi l'altro come si chiama, Lenovo, Toshiba e tutti gli altri, tutte le altre marche non fanno questo problema, sono l'Asus. Vabbè, sono un difetto, chi ne sa. Vabbè, ma per quello che interessa a noi la cam non ce la frega nulla, lo usiamo per cantare, lo usiamo per fare qualche operazione, ma di solito di più per cantare, perché ci abbiamo l'impianto attaccato e cantiamo con l'impianto, capito? Sì, mi sto guardando un video che ogni tanto mi arriva da YouTube, hanno sequestrato 93.000 euro in contanti e 5 kg di droga, tutti in contanti, tutti da 50 euro già. E dove? A Napoli, no, Varese, cazzo, se ho sbagliato va di su, mamma mia. Perché Luca, quello che ha buttato la cocaina per sbaglio, un chilo di cocaina ha sbagliato casa, la lampada è una casa sbagliata, e l'ha beccato con l'aereo. Ehi, ehi, è quel tipo di fuori, non so di dove era, un pilota di ultraleggeri, da, un 28enne mi pare, trentenne. La lanciata è caduta sul tetto. Le gorracce si saranno sconvolte. Se il padrone era furbo, se la prendeva si faceva il sud. Allora, l'ho trovato praticamente, aveva 93.000 euro, di cui 70.000 in auto, 4 conto, 93.000, poi 70.000, sono 163.000 euro, 5 kg di stupefacente, acisi, cocaina ed il valore di 200.000 euro, pronti per essere messi sul mercato. La giornata l'ha fatto Luca. Chi si è rimasto in gheggia, un albanese era. Vabbè, ma quelli sono i pesci piccoli, cazzo, il problema sono i pesci grandi, poi ti trovano uno te, ti do 1.000 euro, prenditi questa roba e la consegni. 1.000 euro? No, così poco uno, se non credo. Ma tu ti credi che questi qua, ho sentito la televisione, questi qua per ammazzare uno 10.000 euro ti ammazzava una persona, chiunque. Io ne conosco uno che faceva l'assassa e la portava in continente. Aveva la fidanza sulla nave in borghese, lui non lo sapeva, l'hanno seguito perché adesso se gli hanno fatto la soffiata, non lo so, e l'hanno arrestato in continente, la nave come è sbarcato l'hanno bloccato. Sì, ma quando prendono questi stranieri sono poverelli, gente che dice metti 2.000 euro e ti carichi in macchina per questa roba qua, quello appena 7.000 euro si sciolgono, 1.000 per dire 2.000, 3.000 euro, mica un italiano va per 1.000 euro e devi dare minimo 20.000 per rischiare. I nigeriani che fanno queste cose? E solitamente sono nigeriani quelli che arrestano per droga. E anche albanesi, non vi ne. E anche albanesi, ma nigeriani, assassa, sto dicendo nigeriani, ma non sai cosa fanno? Fanno i fuochi d'artificio quando arriva la roba, fanno i suoi fuochi d'artificio, loro vedono gli spari, bu, sentono e vanno tutti quanti in greca a prendersi la roba. Hanno rovinato il centro storico, quelli lì, i nigeriani, già i senegalesi che sono brava gente, tutti quanti, non ripone i video, dice da quando sono arrivati loro qua non si può vivere, dice fino alle 3 del mattino cantando musica ad alto volume, dice non si vive, c'è un articolo sulla Bassardegna, dice una cosa e se ti azzardi a dirgli qualcosa per dire ti pisciano il portone, e se ti azzardi a dire cosa ti picchiano pure, ti accoltella, gentaglia proprio. Sì, i nigeriani sono proprio gentaglia, no, i senegalesi sono di quelli bravi, sono quelli che vendono quelle chincaglierie che vendono, però sono bravi, io ne conosco tanti, c'era Barri di Bucurido che andava a Platamona, quello che è molto fratello di tumore, poveraccio, Sassa, il fratello giovane, quello lì parlava sassarese meglio dei sassaresi. Quello Nieddu, Mario Nieddu. Barri di Bucurido si chiama. Ma questo che ora ti chiama Nieddu, Mario Nieddu, non mi vedi quanto sopra Nieddu, troppo ridere faceva parlando di sassarese. Ehi, ehi. Io compagno che cosa che sono in fuscia stasera. Ma poi adesso non so se l'hai mai sentito cantando un anno e due mio, faccio la pisciare dalle risate. Quello si è inserito proprio a Sassari, in mezzo a Sassari vecchio parla tutto il sassarese, capito? Quindi ha imparato bene, ma proprio bene lo sapeva parlare. Ci sono sassaresi che così non lo parlano. Non lo so, aspetta, forse c'è qualcuno che sta chiamando, avanti che vuole entrare, parla ma non si capisce, dai, sei in mezzo al QRM, non ti capisco. Vai Luca, ma non c'è nessuno, Luci, ero già qualche giorno che non. Qui l'altro giorno ho acceso il mando laterale e mi avevano risposto dal Portogallo, ma forse arrivava una bomba. Non sta entrando nessuno, io la sera accenno qualche volta e non c'è mai nessuno. Dopo che torno a portare il cane, che ho cenato e cose, c'è dopo la radio, se vedo che non c'è nessuno, spengo e guardo il televisore. Ma c'era io qualche sera, dopo che c'ho l'officina, fino a una settimana fa, entravo, c'era Giulio, c'era Gianfranco, qualche volta entrava Claudio, c'avevamo belle chiacchierate, però adesso già l'altro giorno ho acceso, proprio per vedere l'aspetto, il giorno dopo ho acceso e non veniva nessuno. Lì dopo le 8 molte volte entra Antonio, 8:15, quando noi stiamo andando via, perché normalmente a quell'ora andavamo a cenare io, Giulio, Gianfranco, almeno noi, e lui arrivava che finiva il lavoro verso le 8, poi qualche volta l'ho risentito sul tardi, altre volte quindi non hai nulla da fare, se si accendono le 9, però sto notando sempre di meno. Dimmi a te Luca se ci sei. Sì, un attimino mi assento, è arrivata alle 25, devo dargli una mano a preparare la cena. Ehi, no problem, ok, buona cena, se non ci sentiamo dopo. Vai già. Ehi, ok, dire sono. Già le 8. Le 7, Gallù. Ah, le 7 sono, non le 8. Perché di solito a cena si va alle 8, per quello che ti ha detto questo. No, vabbè, comunque, niente. Io ho i gamberoni in frigorifero che li ho messi a macerare bene. Poi non so se me li faccio stanotte o domani, non lo so, forse domani, dai, che mille. Che cosa, non ho capito? Mi ho detto, ho messo i gamberoni adesso a macerare, mezzo apprezzavano all'aglio e un po' di peperoncino, così mi rivolto o stanotte o domani mattina o domani a pranzo. Meglio a pranzo, questa non è roba che si mangia la notte, no? Però ti rimangono sullo stomaco e non tu li gusti neanche, mentre a pranzo è un altro busto, dai. Aspetta, io sento sempre chiamando, chi è avanti che vuole entrare? Si sente gente, ma non si capisce chi. Chi è avanti che chiama? Chi sei? Non ho capito, ti tiro fuori però non capisco chi sei. Infatti presentati. Non è italiano. No, non è italiano, mi male del resto. Attention please, do you copy Italy questions? Vabbè, non ha gana, vabbè, pazienza, ok. Lasciamo un attimino di bianco, se nel frattempo vuole entrare qualcuno, se no riprendi tu io. Vabbè, Robert, sei andato a vedere festeggiamenti d'Italia? Sei andato a vedere? I festeggiamenti dell'Italia, andato. No, vediamo quello da brutto. Tu dici, ecco, già, se no non ti capisco quello che dici. E cacca, come che ce l'avevo sotto casa? Roba di macello, l'ho fatto il giorno del coso, della... Ma anche fuochi d'artificio, petardoni, di tutto, di più. Poi c'erano queste persone con qualche camion che c'avevano un impianto stereo a manetta, sembrava il concerto. E non sto scherzando, e parlava il tipo quando presenti un programma, ma sembrava sotto casa, un suono allucinante, ma sino alle 2:30 di notte. Saranno quei camion tipo carri che usano per carnevale, avranno usato quei camion che usano con tutto l'impianto. Ho visto il video da Piazza dei Segni, però dalla parte dove ci sono le MD, l'hai visto, c'è le MD a Piazza dei Segni, preso da un terzo o quarto piano di MD, sopra le MD, perché erano in alto. Tu dove cosa c'era in Piazza dei Segni? Di gente, completamente la piazza, completamente piena di gente, tutto macchine, una cosa, ma migliaia di persone c'erano, non una, piena. Ci credo, tutte le volte che vince l'Italia, cosa, che anche quando la torre si è entrata salite in categoria, lo stesso avevano fatto una festa lì, c'erano tutte le macchine che passavano, però c'erano anche gli stronzi, che quelli fermi con le bandiere tiravano a calci le macchine, facevano atti di vandalismo. Io già mi ricordo l'Italia 90, tu non c'eri in Italia 90 in via Roma, quante macchine hanno visto, se tu eri tranquillo per dire ti fermavi, aprivi lo sportello, ti mettevi a ballare, ti lasciavano fare, ma quelli che invece rimanevano chiusi e volevano passare, roba dei fratelli Bede, un amico mio li hanno distrutto la macchina, ma distrutto mi sua cappotta, l'hanno disintegrata, lui alla fine con 102 è partito sgomando, ma non ha ammazzato anche uno, però cacchio, è allucinante, così a cacchiali, hai visto a quel portapizza quei pezzi di merda? Già l'ho visto, sì, pezzi di merda sosso. Quelli volevano presi e piccati, queste persone qua, per carità. C'è gente che non rispetta manco chi lavora. No, quello lì non è festeggiare, vabbè, quello lì è approfittare di queste cose per coprirsi e fare atti di vandalismo, atti violenti, eccetera, eccetera. Non è festeggiare. Io sì, ho festeggiato, avevo la 500 allora, e avevo tutta la cappotta aperta, la cappotta della 500. Le ragazze di dire che erano dietro erano in piedi, poi avevo i tergicristalli aperti con le bandiere dell'Italia attaccate e facevo muovere il tergicristallo e sventolavo la bandiera. Sì, io lo so, ma lì era tutto tranquillo, ma la cosa che mi dà un po' di rabbia è che il 90% delle persone che hanno partecipato ai festeggiamenti del calcio non ne ha futti nulla, perché non lo segue, proprio gente che tu, la maggior parte dei ragazzi di adesso del calcio non ne ha futti nulla, proprio le ragazze ancora di me, ma vai al calcio qua, eppure per fare a brutto era nel imbrino, una cosa, infatti quello che dà un po' di stizza, perché non gliene fregava, era solo per far macello e sfasciare, perché mi pure stasera ho sentito a Salvatore, a proposito Salvatore Maestrale, ci ho sentito poco fa, e la fratella Salvatore in Austria dice che c'è troppo di lusso, poi tutti contro l'Inghilterra, di domani io sono andato a lavorare, dice c'avevo un senso di superiorità, la gente come per dire cacchio, mi hanno vinto, siccome loro hanno battuto l'Italia, ha battuto anche l'Austria, ti ricordi la partita, è stata una bella partita combattuta, e gli austriaci erano convinti di vincere, invece ci hanno messo un po' in difficoltà, ecco, c'avevamo un senso di superiorità, ci guardavano tutti ammirati, perché noi abbiamo vinto gli europei in dove lavora lui. Adesso dove sta lavorando, sempre in quell'affare dove fa le pannelli solari. Sì, sì, sì, adesso va in pensione mia, a fine anno va in pensione, forse viene a ottobre, mi ha detto, forse ce la fa bene a ottobre. E ritorna qua quando va in pensione a restare lì? Una cosa, non ne frega niente, poi magari vediamo, si è preso la pensione pure lì, c'ha la pensione italiana, dice 3 lire, mi ha detto, cosa gli danno, ridicola. E di lì, con quei pochi anni che ha lavorato, mi sembra 12 anni, a giugno prende la pensione italiana. Figurati. Vabbè, lui ci avrà anche contributi di quando lavorava qua, non li faranno valere. No, vabbè, di lì non c'entra niente. Lui la questione italiana se l'ha già maturata forse un paio d'anni fa, ma gli danno una miseria, mi ha detto. E più gli danno, si prende qualcosa della pensione austriaca, lavorando solo 12 anni, lui c'è 12 anni, mi ha detto di lì, però dice mi servono tutti e due, eccetera, eccetera. No, allora, si è messo bene, poi si aveva fatto una piccola attività di prodotti tipici, anche se adesso credo che l'abbia chiusa perché era troppo impegnativa, non riusciva a portarla avanti perché col lavoro poi c'erano i turni di notte, poi la mattina aveva tanti prezzi, dice non mi stavo facendo il fumo da te, e lui l'ha chiusa, però dice adesso lui come finisce probabilmente fa qualcosa, soprattutto online, perché dice è molto apprezzata la roba italiana, soprattutto sarda, dice se tu c'hai delle confetture, salsiccia, cose così che non si deteriora, soprattutto dice i vini dice vanno scemi, per il vino, il mirto, tutte queste cose che abbiamo noi, dice diventano scemi. Lo so. Sì, siamo seduti in Salvatore, mi ha mandato anche il filmato del negozio, tutto quanto, me l'ha fatto vedere, sì, l'avevo visto. Avevamo parlato e mi aveva detto che lì li pagano anche la mezz'ora, tutto, dice tutto pagato, paghi poco di tasse, ti pagano la mezz'ora, insomma, si è trattato benissimo. Però dice non ha ferie, c'ha pochissimo, perché dice, con il fatto del Covid, adesso c'ha un numero di arretrati, devono lavorare, infatti gli hanno detto di lavorare, glielo pagano naturalmente le cose, però dice ferie quasi niente quest'anno, perché dice devono recuperare tutto quello che hanno perso l'anno scorso con il Covid, e devono lavorare anche a Ferragosto e quei giorni lì. E vabbè, lui adesso mi sembra che era capo reparto, qualcosa del genere l'avevano fatto, era salito di grado mi pare. Sì, sicuramente ha guadagnato qualcosa, solo che fa anche i turni ancora la notte, molte volte infatti quando ci sentiamo sono al lavoro, cazzo di notte, sì, e pensavo ne fa molti di meno, mi ha detto, però siccome stanno lavorando al ritmo più, la produzione è aumentata e devono per forza lavorare 24 ore su 24. Ecco, pagato. Ci vedo con questi pannelli solari, mi pare che mi ha detto che fa. È una ditta che fanno gli specchi dei pannelli solari e quelli passano a un'altra ditta che li assembla. Ah, ecco, fanno solo un pezzo, capito. Ho visto da sentito lì a Fiume Santo quanti ce ne sono i pannelli solari, quindi chi ha venduto quei terreni lì ha fatto i soldi? Domani che ci sono tutti espropriati, no? Ti danno il valore di coso agricolo, non pensare che ti diano chissà che cosa, ti dice un esproprio, quando vale, tipo quando passa un elettrodotto, un cavo, una linea elettrica o quando passa una strada, quanto vale quel terreno? Trova a prezzo non di mercato, a prezzo agricolo, per quello è un terreno agricolo, ma io qua mi devo fare la villa, non te la putti nulla, ti danno il valore agricolo. Ma io so che lo facevano quando dovevano passare una strada, ma quello lì è un terreno privato dove loro hanno piazzato dei pannelli solari, non penso che le abbiano fatto gli espropri lì. Certo, quello è l'Enel, è tutta roba del, vabbè, adesso non so se sia Enel personalmente o se sia l'Endesa o l'altro che c'è, come si chiama Eon, non lo so esattamente perché ogni tanto cambiano, si rivendono un pezzo di terreno a uno, poi lo passa all'altro, l'altro ancora, però lì c'è l'espropio come un elettrodotto, cioè come quando fai una linea elettrica, non ti va a putti nulla, a parte io ti prendo questo pezzo di terreno, ti passo in mezzo e non ti puoi rifiutare. Un amico mio gli hanno fatto una roba e gli ha detto non è roba da raccontare qua, però quello cacchio, quello gli è andata bene alla grande. Amico invece gli hanno tagliato la campagna in due e ha detto che non se ne è fatti nulla di un pezzo di campagna così, la banca, vedi, hanno tagliato in due la campagna, capito? C'aveva una campagna enorme, cazzo, dove c'è sette di oliveti, eccetera, e praticamente ne hanno preso un pezzo, il pezzo della casa gliel'ha lasciato con un po' di oliveti attorno, tutto il resto se l'hanno preso, l'hanno espropriato. Alle lì non sta dicendo quella zona. Lo sai che cosa succede? Me l'ha spiegato mio nipote che è un avvocato, ha detto che se tu ti rifiuti poi non ti danno manco i soldi che ti dovrebbero dare quando te le espropriano. Non lo so, di quello non lo so. Comunque il suocero di mio fratello, la stessa zona dove stai dicendo tu, gli è passata la strada in mezzo, proprio in mezzo, gli ha tagliato in due la campagna, e siccome è passata a filo, lo scavo è passato a filo in una casa di campagna, di quelle storiche, quelle vecchie, e ne è crollata la casa. Poi hanno cambiato il percorso e hanno dato i soldi, dice una miseria, Olivetto, tutto c'aveva, cioè, quella è zona di Olivetto, la strada, hai detto tu vai alla campagna sua, c'è questo scavo in mezzo, tipo quel pezzettino di mancale, l'hai visto che vai a Predania, hanno fatto lo scavo così in mezzo alla campagna sua, e poi non hanno fatto niente perché hanno cambiato il percorso e la strada fa un altro giro, e lui si è trovato quella campagna a metà. E quello mai mettere le case vicino alla strada, perché se ti fa una scopo ti fa disfrutare la casa. Un amico invece, lui già l'ha andato a me, ha visto, te lo dico veloce e veloce, lui trova degli punti. Dovevano passare questa strada, lui aveva una villetta insieme al fratello, all'imputo non ti